Radio Onda Rossa 87.9, la modulazione di frequenza. E allora abbiamo in diretta un compagno curdo che ci può raccontare qualcosa. Pronto? Sì. Ecco, ciao, senti, noi volevo insomma sapere un po' qual è la situazione per quanto riguarda quello che sta succedendo in questo momento con i bombardamenti turchi e con le retate che ci sono stati nei quartieri di Ankara alla ricerca dei militanti del PKK e anche insomma gli effetti di quello che è successo a Suruç. Sì, no, sicuramente possiamo dire che dopo quello loro hanno accettato di aprire le basi di NATO per coalizione e allora loro hanno iniziato a bombardare le zone movimenti curdi. Normalmente la cosa che hanno fatto, quell'accordo tramite americani e turchi per lottare contro ISIS, invece loro purtroppo usano questa cosa contro i curdi. Fino ad ora loro non hanno fatto tante cose contro ISIS, ancora quelle basi loro non hanno usato. In Kurdistan, anche in Turchia, quasi 22 province loro hanno iniziato a arrestare tantissimi attivisti politici curdi, non sappiamo quanti sono, però possiamo dire che quasi 1000 persone hanno arrestato per il motivo terrorismo, eccetera. Quando vediamo quella situazione, che quelli gente che hanno arrestato, grande parte sono politici, attivisti, membri HDP, altro partito democratico regionale in Turchia. Sicuramente che succederà non sappiamo, però possiamo dire che AKP, quello governo turco, ha iniziato una guerra totale contro i movimenti curdi. Si può dire questa cosa, tutti quelli bombardamenti è successo anche fuori Turchia, sempre alle zone curdi, nord Iraq o diciamo sud Kurdistan, e lì anche sempre tutti i bombardamenti hanno fatto contro militanti curdi, non è contro ISIS. Fino ad ora ancora loro non hanno fatto niente contro ISIS. C'è stata una complicità evidente del governo turco nei confronti dell'ISIS, di Daesh, li hanno foraggiati, gli hanno consentito di passare il confine quando c'è stato appunto l'assedio di Kobané. Sono cambiati i rapporti di forza fra i curdi e il governo turco dopo la liberazione di Kobané? Sicuramente adesso, per esempio, prima c'è stato fuoco tramite PKK e il governo turco. Adesso non si può discutere, non si può dire di più questa cosa, perché già loro 2 giorni che bombardano tutte le montagne curdi, tutte le parti che vivono militanti curdi. Invece quando andiamo a vedere le parti di Siria, in Rojava, 3 anni sempre loro hanno appoggiato questi jihadisti, anche ISIS, però ora dicono noi con americani, con inglesi, con coalizione generale siamo d'accordo, facciamo la parte di coalizione. Però anche questa cosa sempre usano tutte le forze contro i curdi, non è che contro di ISIS, perché come è cresciuto ISIS, come è entrato in Turchia, ha fatto tutti quegli attentati a Suruç, Diyarbakir, Adana, Mersin, sempre appoggiato l'intelligenza nazionale turca e anche il governo AKP. Adesso invece il governo turco ufficialmente, loro hanno iniziato anche a usare questo argomento che noi adesso lottiamo, combattiamo contro ISIS, invece la realtà sempre contro i curdi. Sicuramente se così continui il governo turco, succederà un casino anche in Turchia, perché di più 1000 persone già loro hanno arrestato, tutti questi politici attivisti. Se senti, l'attacco è diretto proprio contro il movimento curdo, e poi forse anche buoni risultati alle ultime elezioni dell'HDP in qualche maniera hanno preoccupato ulteriormente il governo di Ankara. Sì, perché adesso prende la rivincita proprio del governo, perché HDP ha fermato il governo turco, partito islamico integralista, anche ha fermato il progetto di presidente Erdogan. Adesso tutti e due, sia partito sia il presidente, loro non possono creare il loro progetto che pensavano, sia il sistema presidenziale sia il quarto volta governare Turchia da solo, però adesso non può fare tutto quella cosa. Sicuramente superamento il barriere 10% che ha fatto HDP, quando succede questa cosa automaticamente il governo, quello partito islamico, ha perso sua forza. Adesso per la rivincita il nome di terrorismo eccetera ha iniziato contro tutti i membri di HDP e politici una campagna arrestando adesso tutti i membri di HDP. Certo, senti, un'ultima cosa, quello che è successo a Suruz potrebbe essere l'inizio di una nuova ondata di vero e proprio terrorismo di Stato da parte del governo turco. Hanno dovuto far vedere rispetto alle pressioni occidentali, che hanno anche attaccato le postazioni dell'ISIS, ma nella tale fatti questa offensiva è chiaramente anti-curda. Potrebbe essere appunto l'attentato bestiale di Suruz l'inizio di una sorta di vero e proprio terrorismo di Stato da parte del governo turco? Ma quella non è iniziato con Suruz. Certo. Già c'era in Kobani, Tlabiat, Cizre, e dopo la prima elezione è iniziata a Mersin, Adana, a 5 giugno a Diyarbakir. Il Suruz è questo. Possiamo dire che era un po' non solo contro curdi, anche contro tutti i movimenti, diciamo quelli che hanno fatto coalizione con curdi, tutti i movimenti turchi anche, perché quelli giovani che sono morti, grande parte sono arrivati da Turchia. Erano membri di diversi partiti, però una federazione giovani socialisti in Turchia, quelli membri di quella federazione sono morti lì. E allora con Suruj possiamo dire che direttamente questo governo integralista ha iniziato una guerra a fuggire il terrorismo contro tutti questi movimenti che adesso fanno le parti di HDP, fanno le parti di coalizione. Prima invece solo attaccava curdi, con questo di Suruj sicuramente adesso va attaccando con tutte le parti di coalizione HDP, possiamo dire. Bene, allora ti ringrazio della corrispondenza. A presto, ciao, grazie. Buona giornata, grazie. Dance, move, shake, body, dance, move, shake. Radio Onda Rossa 87.9, la modulazione di frequenza. Move.